ricordo che ero solo e a Napoli era buio. La luce era scomparsa dietro all'ombra del Vesuvio. Affacciato al balcone penso ai tuoi sorrisi. La fiamma di sto male ci aveva divisi. E cerco la fortuna guardando la luna. E quelle notti rapido correvo da te. Non dormivo perché il mondo crollava intorno a me. E allora pensai che tu sei tutto quello che c'è. E cerco la fortuna guardando la luna. Quelle notti rapido correvo da te. Non dormivo perché il mondo crollava intorno a me. E allora pensai che tu sei tutto quello che c'è. Quella sera eri innamorato di una iena vera. Guarda come l'anima si cela appena ti vedo parlare con un altro. La mia mano trema con la luna piena. Perché lo so che non lo capirai mai. Quello che provo e mi caccio nei guai. Sai, chissà se mi aiuterai. Ai, ai, ai. Senza te che la notte non ha stelle. Mi ricordo il lungomare, le feste alle tre. Ed io non chiedo nada che non sia con te. Senza te che la notte non ha stelle. Mi ricordo il lungomare, le feste alle tre. Ed io non chiedo nada che non sia con te. E tu l'altra volta, volta, cercavi la svolta e andavi di corsa per scappare via. Guarda lì quella mia faccia tosta. Se gira la giostra, giostra, non lo faccio apposta. Ti scrivo su WhatsApp e poi tutto a posto. Vaga a casa di qualcuno, ci volesse Tenerife. Guardo golfo a mare chiaro e metti i piedi in dei radici. Nell'appartamento privato, resti in prima fila sul divano. Se tu non mi baci non canto, come sei bella. E cerco la fortuna guardando la luna. E quelle notti rapido correvo da te. Non dire, tu si uviezze di sonno di ciò. Che faccio di DJ? Non lo papista, non va a avere nessuno. Guarda un'altra volta, se non c'è sta coccruna. Già mi sfondo un piede in tuo cervelletto. Con che la musica ti cama sfonda nel valdure. Che fa? Gente in casa struscia tutto, fatto giallo. Basta, sta arrivando con corona. Fumo e sigarette tutte quante so high. Perché la musichetta forse le party time. It's a one way street, man, start, pare rit. Dice una casa morta, mo mano, ma state zitta. Rizza che la touch, ancora l'infaccia. Sempre questa cascia, con ma picci fa paura. Che fa? Lose your bits of this song, Lordy J. Don't grow up. Like I won't see the moon, sure, but say, don't give up. Lose your bits of this song, Lordy J. Don't grow up. Che faccio di DJ? Non si pensa di sonno di DJ. Big time now, son che quattro mattina. Non può fare cristiano, sta a fare nella festina. Sono big town boy, fatti i cazzo tuoi. Gente ficco vecchia, mo maro portasse sì. Hai detto che la traccia, amore, la rifaccia. La tizia da la regge, te conosce la Parigi. Che fa? Don't give up. Lose your pizza di solo di te. Don't grow up. Tranquilla, non dormire. Usa la Gina, usa la Gina. E lo voglio. Usa la Gina, usa la Gina. Tutti i tempi. I tuoi sentimenti, conosco la chimica. Se il tuo corpo balla tra le luci dei club questa sera, possiamo fare quello che ci pare. Qui non è un crimine amare chi ti va.

outside is my house, I see me got a small wall. As me I wake up, now she did my mind on wall. Jina gani baby, honey, boo, oh no more.